Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Renzi è bello, per me neanche tanto, e le consiglio pure di dimagrire perché si è pure anche inchiattito in campagna elettorale. Ma detto questo è proprio un colpo basso, l'inchiattito è una botta politica sofisticatissima molto. Sta botta politica. Allora, dice la Santanchè che lei non si fida delle promesse fatte da Renzi, che al momento non sono entrate in buca, e che Renzi si è perfino inchiattito, che vuol dire ingrassato. Posso dire la prima cosa? Sulle province. Ha mangiato molto dei suoi alleati, e quindi voglio dire tutto questo l'ha fatto aumentare. Insomma, diciamo che il potere prima logorava chi non ce l'ha, chi non ce l'aveva, adesso evidentemente ingrassa un pochino, sarà anche aumentato Renzi, abbiamo un viso un po' più tondo, anche uno stomaco un po' più prominente, ma d'altronde uno, se si deve occupare una cosa, probabilmente non può farne altra. Questo, insomma, ognuno naturalmente dal proprio punto di vista, si sa che i giudizi e i vari commenti sulle varie persone, sui politici, sono abbastanza, diciamo, all'ordine del giorno, quindi non credo che nessuno si offenderà. Ma cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo per iniziare come sempre in un modo così un po' vivace, tanto lo sono poi anche tutte le notizie che vi racconterò come sempre, così come i vostri commenti, se volete, sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666, commenti sulle varie notizie che vi racconterò e sui temi che man mano approfondirò con i vari ospiti. Ci sono due notizie che arrivano adesso, tra l'altro, delle agenzie battute pochi istanti fa. Una riguarda il Centrafrica, strage di cristiani in una chiesa, 10 i morti, e poi in Egitto, sapete che si sta procedendo con le elezioni presidenziali, ebbene l'ex generale egiziano Abdel Fattah al-Sisi avrebbe ottenuto, secondo i primi exit poll, il 95,3% delle preferenze alle elezioni presidenziale, quindi diciamo impallidisce il 40% oltre del PD alle ultime votazioni, a quelle europee. Ma insomma, iniziamo con il riassunto della giornata. Bruxelles, il giorno degli incontri tra gli euroscettici. Grillo incontra il populista inglese Farage, promette: causeremo guai a Bruxelles. Salvini vede Marine Le Pen, intanto Berlusconi ribadisce: niente figli, resto io il leader. Borsa, ancora un buon finale per Piazza Affari, spread sotto i 160 punti. Caso Novartis Roche, il Ministero della Salute chiede 12 milioni di risarcimento. La fotografia dell'Istat sull'Italia, la crisi cambia la famiglia, più madri a portare lo stipendio a casa, i figli che vanno all'estero, disagio lavorativo per 3 milioni di persone, nascite al minimo. Adozioni, sono arrivati in Italia bimbi provenienti dal Congo, festa a Ciampino, benvenuti, twitta Renzi. Afghanistan, il presidente Obama promette entro il 2016 via tutti i soldati dal combattimento. E Giro d'Italia, dopo le polemiche di ieri, oggi vince Stefano Pirazzi. Partiamo quindi dai nuovi assetti che caratterizzeranno il Parlamento europeo e quindi anche la politica dell'Europa, le politiche dell'Europa. Dopo la scossa del voto di domenica a Bruxelles, oggi è il giorno degli euroscettici. Beppe Grillo ha incontrato il leader dei populisti inglese Farage, così si legge un po' la francese, mentre Matteo Salvini si è incontrato con Marine Le Pen. Pare che stia, insomma, queste alleanze probabilmente sono possibili. Poi ci collegheremo però con Bruxelles più tardi per capire appunto se si stanno componendo questi nuovi gruppi e le alleanze e che cosa hanno intenzione, qual è il loro programma politico. Tra gli sconfitti delle elezioni europee oggi ha parlato anche Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia non è intenzionato, fa sapere, a cedere il timone nemmeno ai figli. Chiarisce che il leader rimarrà lui e chiude ad una possibile successione di Marina. Silvio Berlusconi sgombra il campo da dubbi e congetture sul futuro di Forza Italia. La questione dei figli è chiusa, nessun passaggio di testimone, nemmeno ribaltoni, dice l'ex cavaliere, riunendo i big del partito dopo il deludente voto di domenica. Non esclude però che in futuro possano esserci primarie, anche se di coalizione e non di partito. E proprio il tema dell'alleanza e della ricostruzione di un nuovo centrodestra è stato centrale. Si partirà dalla Lega, tant'è che Forza Italia sosterrà il referendum del Carroccio, e ciò verrà annunciato ufficialmente da Berlusconi domani durante una conferenza stampa congiunta alla Camera con Matteo Salvini. Quanto ai risultati delle europee, Berlusconi non nega la delusione. Sapevo che era difficile, ma pensavo di superare almeno il 20%, avrebbe detto ai suoi. La nota dolente però ora è anche un'altra, la mancanza di soldi del partito. Siamo con l'acqua alla gola, ha detto Berlusconi, puntando il dito contro l'abolizione al finanziamento pubblico pubblico ai partiti una legge voluta dalla sinistra contro di lui, di cui l'esortazione ai suoi a darsi da fare sul territorio per raccogliere fondi. Secondo Denis Verdini, per ridare fiato a Forza Italia servirebbero almeno 30 milioni di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo adesso all'istantanea del nostro paese scattata dall'Istat. L'Italia fatica, secondo il rapporto dell'Istituto di Statistica, ancora ad agganciare la ripresa e ci sono sempre famiglie che riducono i propri consumi. Famiglie in difficoltà e giovani costretti a fuggire all'estero. Finita la recessione, il nostro resta un paese che stenta a ripartire. Lo dice l'Istat, che nel suo ultimo rapporto annuale fotografa un'Italia sempre costretta a fare i conti con la mancanza di crescita e occupazione, in particolare al sud. Non bastano i timidi segnali positivi che arrivano dall'export e dai consumi. Tra disoccupati, scoraggiati e inattivi sono oltre 6,3 milioni gli italiani esclusi dal mondo del lavoro. Più di 3 milioni invece le famiglie nelle quali nessun componente ha un'occupazione. Cresce anche il numero di quelle dove sono le donne a portare a casa lo stipendio. I giovani sono i più colpiti. Negli ultimi 5 anni in 100.000 hanno lasciato l'Italia. Secondo l'Istat, la crisi ha allontanato dal nostro paese anche gli immigrati. Ne arrivano sempre di meno mentre aumentano quelli che vanno via. La recessione sembra aver scoraggiato anche le nascite. Nel 2013 si è toccato un nuovo minimo storico con poco meno di 515.000 neonati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo è un argomento, una fotografia importante, l'annuario dell'Istat, che poi commenteremo meglio con la direttrice del Dipartimento delle Statistiche Sociali dell'Istat stesso, Linda Laura Sabbadini. Nel frattempo, a parte questa appunto istantanea sulla situazione di crisi comunque che l'Italia continua a vivere, il Tesoro italiano sfrutta l'ottimismo dei mercati legato alla vittoria delle elezioni del PD di Matteo Renzi e fa del tutto esaurito nell'asta di bot a 6 mesi. Dopo il buon risultato delle emissioni di ieri, questa mattina il Tesoro italiano ha collocato tutti 6,5 miliardi di euro di bot a 6 mesi, mostrando una domanda in crescita e rendimenti in calo rispetto ad aprile. Immediata la reazione dello spread BTP Bund, che è tornato sotto quota 160 punti con un tasso del decennale al 2,96%. Lo stesso livello di lunedì, quando aveva perso oltre 20 punti base in sciolle euforia per il trionfo di Renzi alle elezioni europee. Anche la borsa milanese ha sfruttato l'effetto bot, realizzando la migliore performance in Europa con un rialzo dello 0,85%. Ora gli occhi del mercato sono puntati sulle aste BTP di domani a 5 e 10 anni. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Il presidente americano Obama ha annunciato via dall'Afghanistan tutti i soldati da combattimento entro il 2016. Non un ritiro, ma una transizione. La strategia di uscita delle truppe statunitensi dall'Afghanistan ha ora un'agenda precisa. L'ha annunciata il presidente Obama, affermando che è tempo per il paese di girare pagina al termine di una guerra che nessun americano si aspettava così lunga. It's time to turn the page on more than a decade in which so much of our foreign policy was focused on the wars in Afghanistan and Iraq. I 32.000 militari statunitensi ancora in Afghanistan saranno ridotti a 9.800 entro il prossimo anno. Entro il dicembre del 2016, la presenza militare in Afghanistan sarà limitata al personale in divisa normalmente in servizio all'ambasciata di Kabul. Quanto a come e al dove le forze armate così recuperate potrebbero essere impiegate, Obama lo ha fatto capire nel suo discorso di oggi all'Accademia di West Point. La politica estera degli Stati Uniti, secondo Obama, non potrà ignorare la guerra civile in Siria. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso in Ucraina resta alta la tensione dopo la strage di ieri a Donetsk, costata la vita a oltre 100 persone. Oggi i soldati ucraini hanno circondato la città. Intanto non si hanno ancora notizie della missione speciale inviata dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Ma ecco, lo vedo adesso in realtà che la Farnesina, Ministero degli Esteri italiano, ha confermato il rilascio del team dell'OSCE, di cui faceva parte anche un'italiana che era stato fermato oggi nella zona di Donetsk. Quindi questa cosa per fortuna si è risolta bene. Oggi purtroppo è arrivato anche il feretro di Andrea Rocchelli, il fotoreporter italiano ucciso sabato scorso a Sloviansk, che è giunto a Ciampino intorno alle 17 con un volo organizzato dall'unità di crisi della Farnesina ad attendere l'aereo su cui viaggiavano anche i familiari. Alcuni colleghi del fotoreporter, c'era la ministra degli affari esteri Federica Mogherini. Un'altra buona notizia invece, come quella del rilascio del team dell'OSCE, sono arrivati in Italia i bambini del Congo, un'attesa che durava dal settembre 2013. Hanno finalmente abbracciato i genitori i 31 bambini congolesi adottati da famiglie italiane. Ad accompagnare i piccoli nel viaggio aereo da Kinshasa, Maria Elena Boschi, ministro per le riforme istituzionali. Il viaggio è andato bene, i bambini sono stati bravissimi e ora pensiamo a loro, pensiamo a fare festa con le loro famiglie. È stato un lavoro impegnativo da parte di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio ha avuto fin dall'inizio a cuore questa vicenda, quindi un ringraziamento va ai funzionari di Palazzo Chigi e funzionari della Farnesina. Sono 24 le famiglie italiane che hanno ritrovato i 31 bambini congolesi. Una delle mamme è Laura Mancinelli, che ha adottato due bimbe. Ci sono delle persone che hanno lavorato su questa vicenda favolose, anche da un punto di vista umano. Cioè noi potevamo chiamare la Commissione, il Ministero, ma veramente lo dico, potevamo chiamare e loro erano sempre disponibili, anche banalmente per uno sfogo, eh? Cioè che magari dicevamo oggi non ce la faccio, ma non è che c'è qualche notizia che magari sapevamo che non c'era. Però c'era sempre qualcuno disposto ad ascoltarci. Si è sbloccata così una vicenda iniziata a settembre 2013 con il mancato nulla osta dal governo del Congo a causa di procedure irregolari nelle adozioni che tuttavia non riguardavano l'Italia. Giuseppe Carlomagno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi ricordate lo scandalo di qualche tempo fa delle due grandi multinazionali di farmaci che avevano fatto un cartello, come si dice, un accordo sottobanco per due farmaci per gli occhi, per farne costare uno moltissimo che era uguale a un altro, costava molto meno. Bene, il Ministero della Salute ha richiesto un risarcimento danni pari a 1.200 milioni di euro per 3 anni alle aziende Novartis, Roche e Hoffmann per questa vicenda appunto della commercializzazione dei farmaci Lucentis e Avastin. Il Ministero ha invece richiesto un risarcimento pari a 14 milioni all'azienda Pfizer. E per chiudere lo sport, mancano 15 giorni ai mondiali e mentre l'Italia di Prandelli si prepara a partire per Manaus, le TV mettono a punto le squadre dei commentatori. Oggi ha presentato la sua Sky Sport, tra le voci c'è quella di Paolo Rossi, che al microfono di Marta Cagnola così ha parlato della nostra nazionale. L'Italia è sempre una squadra forte, noi siamo una nazionale forte, possiamo competere con tutte, non dobbiamo aver paura di nessuno, quindi non ci dobbiamo spaventare. Ripeto, dipenderà dalla condizione con cui ci arriviamo, anche proprio psicofisica. Se ci arriviamo bene, io dico, possiamo dire la nostra, possiamo giocarcela, insomma, sarà difficile vincerlo, questo vincere è sempre complicato e difficilissimo, però secondo me fino alla semifinale io ce la vedo l'Italia, insomma. Che sensazioni hai ogni volta che parte un mondiale? Io non riesco a immaginarmi nessun'altra maglia rispetto alla maglia azzurra. Ogni volta che c'è un campionato del mondo per me è qualcosa, mi suscita dentro sempre, a parte ricordi fantastici, ma sono delle emozioni che io quando ero bambino mi ricordo, mi mettevo, cioè, avevamo un salottino, c'era mio nonno, era un rito proprio, arrivavano gli amici da fuori, le partite si guardavano tutte insieme e adesso poi siamo lì che li viviamo sempre con grande trepidazione, insomma. Infine il ciclismo con il Giro d'Italia, dopo le polemiche di ieri, oggi nella 17ª tappa, Sarnico Vittorio Veneto, il successo va all'italiano Stefano Pirazzi che con una fuga si aggiudica la frazione. Bene, con lo sport direi per il momento di chiudere questo riassunto della giornata, adesso aggiorniamo invece chi sta viaggiando, sempre per i vostri commenti, vi ricordo oggi non vi lancio un tema particolare, ce ne sono vari sui quali se volete potete esprimervi, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i messaggi che è il 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi quindi a voi, le notizie ve le ricordo brevemente, poi affronteremo alcuni temi, tra cui per esempio quello delle carceri affollate. Oggi è scaduto un termine, quello della sentenza di condanna nei nostri confronti da parte di Strasburgo per la situazione difficile, disumana anche definita, delle nostre prigioni. E poi parleremo della fotografia dell'Istat e anche di una nuova questione che riguarda Stamina. Ma prima vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Oggi a Bruxelles è il giorno degli incontri tra gli euroscettici. Grillo incontra il populista inglese Farage, insieme promettono causeremo guai a Bruxelles. Salvini intanto vede Marine Le Pen e intanto Berlusconi ribadisce che resta lui il leader, niente figlie, non farò più il nome dei miei figli. Borsa ancora un buon finale per Piazza Affari, lo spread è sotto i 160 punti. Caso Novartis Roche, il Ministero della Salute chiede per il cartello tra le due aziende di farmaci 1.200 milioni di risarcimento. La fotografia dell'Istat, la crisi sta cambiando la famiglia italiana, più madri a portare lo stipendio a casa, i figli che vanno all'estero, disagio lavorativo per 3 milioni di persone e nascite al minimo. E poi per le adozioni, questa buona notizia, sono arrivati in Italia i bimbi provenienti dal Congo, festa Ciampino, benvenuti, e questo è il tweet che ha mandato Renzi. E poi c'è l'annuncio di Obama per quanto riguarda l'Afghanistan, promette entro il 2016 via tutti i soldati da combattimento. Per il Giro d'Italia, infine, dopo le polemiche di ieri, oggi vince Stefano Pirazzi. E adesso invece direi occupiamoci di una nuova sentenza che riguarda il metodo Stamina di Davide Vannoni. E saluto il professor Salvatore Amato. Buonasera, professore. Buonasera. Membro del Comitato Nazionale di Bioetica, coordinatore del gruppo di lavoro Libertà di Cura, Consenso Informato e Uso Compassionevole dei Farmaci, nonché docente di Filosofia del Diritto all'Università di Catania e anche di Biogiuridica, quindi siamo proprio nel cuore, diciamo, di chi ha competenza di commentare una sentenza come questa, quella che è arrivata da Strasburgo oggi, secondo la quale è legittimo lo stop alle cure che l'Italia ha imposto per il momento. Cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che la decisione delle autorità italiane di rifiutare l'accesso al metodo Stamina, no, del famoso Vannoni, a una donna affetta sin dall'adolescenza da una malattia degenerativa del cervello non ha leso i suoi diritti. Quindi questo divieto è stato, secondo la Corte di Strasburgo, legittimo da parte dello Stato italiano. Ora, professor Amato, io so, lei ha tenuto anche un'audizione in Senato oggi, si continua a parlare di questo metodo Stamina. C'è comunque un po' di confusione, mi pare, perché il Tribunale di Ragusa proprio oggi ha imposto intanto il metodo Stamina nei confronti di una bambina di Modica, in Sicilia, di 2 anni e 8 mesi, affetta dal morbo di Niemann-Pick. Quindi ci sono veramente tante sentenze contrastanti, indicazioni e controindicazioni. C'è un vuoto normativo, un problema, la mancanza di un quadro normativo omogeneo. Qual è la questione in Italia? Ecco, sicuramente manca un quadro normativo omogeneo. Accanto a questo ci sono dei fenomeni, possiamo dire, di degenerazione dell'informazione, per cui si è presentato il metodo Stamina come il rimedio possibile a situazioni estreme, e questo ha fatto sì che si determinasse questa attesa continua e costante di terapie richiesta da parte dei giudici. Manca in Italia una normativa omogenea, però dobbiamo dire un punto centrale, fondamentale, è che il rispetto dei protocolli terapeutici è un elemento fondamentale della tutela del diritto alla salute del cittadino. Proprio perché non ricada, non corra dietro illusioni o non sia soggetto a fenomeni speculativi. Dunque non mi meraviglio della sentenza di Strasburgo. I singoli giudici si trovano di fronte al problema specifico e determinato di una persona che sta soffrendo e che non ha alternative. Accanto a Ragusa sono tante le sentenze che sono emanate e si parla di diritto alla speranza. Basato su che cosa? Basato sulla pretesa contrapposizione tra un'efficacia astratta, una inefficacia astratta della terapia affermata dalla scienza ufficiale e una pretesa efficacia pratica. Ecco, questa pretesa efficacia pratica, che molto spesso sono soltanto lievi miglioramenti, ha fatto sì che tanti singoli giudici imponessero, e già questo è un fatto abnorme perché al medico non può essere imposto un trattamento sanitario, imponessero di continuare la terapia Stamina. Però qui allora, forse, a parte anche la questione normativa, professor Amato, c'è anche un problema di carattere scientifico, cioè la comunità scientifica ha dato in Italia una parola definitiva su questo metodo Stamina o no? Allora, la comunità scientifica, tenga presente che per quello che si sa del metodo Stamina, non esiste forse neppure un metodo Stamina in senso stretto, perché pare che i protocolli siano ancora segreti, quindi il tipo di valutazione scientifica è assolutamente aperto. Si è creata però un'attesa, un'aspettativa, sono state fatte delle infusioni che non si sa bene in che termini, in che modo, questo è ancora tutto aperto e tutto da decifrare, che avrebbero prodotto dei risultati positivi. Ora, avrebbero prodotto dei risultati positivi, la lentezza della sperimentazione serve proprio a distinguere l'effetto placebo, la convinzione, l'impressione che ci sia un miglioramento dall'effettivo miglioramento. Quindi in questo caso invece si saltano tutta la lunga durata della sperimentazione scientifica e si pretende di ottenere dei risultati subito. Ecco la legittimità del comportamento delle istituzioni italiane e anche della sentenza del Tribunale di Strasburgo. Quindi per concludere, professor Salvatore Amato, allora intanto questa sentenza di Strasburgo è su un caso specifico, no, di questa donna affetta sin dall'adolescenza da una malattia degenerativa del cervello, ha detto lo Stato ha fatto bene a vietare l'uso del metodo Stamina, però non è una sentenza generale, nel senso che qualcuno continuerà ancora a utilizzare in Italia questo metodo Stamina finché, a parte che mi pare così assurdo che ci siano dei protocolli segreti e che non sia stato richiesto anche dal Sistema Sanitario Nazionale, dal Ministero della Salute, di vederli una volta per tutte questi protocolli, no? Guardi, il metodo Stamina in realtà cosa succede? È una eccezione ai normali protocolli terapeutici, quello che viene chiamato l'uso compassionevole dei farmaci. Questo uso è il medico, sotto la responsabilità del medico a livello individuale, può essere somministrata una terapia difforme da quelle normalmente praticate, se il medico in scienza e coscienza ritiene che questo possa apportare un beneficio al paziente. Quindi l'elemento centrale è la decisione del medico. Evidentemente qui c'è un medico che ha ritenuto, non so in base a quali criteri di valutazione, con che conoscenza, che il metodo Stamina fosse necessario. Quello di Ragusa. Un'istituzione, capisce? Questo è l'elemento. Cioè, ma al di fuori dei protocolli convalidati e della terapia ufficiali. Comunque, insomma, si spera che ci sia prima o poi, meglio prima che poi, una parola definitiva su questo metodo, visto che è anche, insomma, si gioca sulla speranza, sulla salute di tanta gente, no? Diciamo, sull'illusione, è chiaro che si innesta un fenomeno speculativo che è presente però in tutto il mondo. In tutto il mondo si sono verificati casi in cui si è fatta un ricorso a terapie staminali che sembravano miracolose. I siti internet sono pieni di cure che propongono rimedi di questo genere. Però credo in Italia soltanto è diventato un fatto istituzionale, ecco, in altri paesi è rimasto un fatto speculativo privato, ma il fenomeno è presente dovunque. È presente dovunque. Aspettiamo questa parola definitiva. Intanto grazie professor Salvatore Amato. Grazie a lei. Grazie e buona continuazione. Stavo anche guardando i vostri messaggi, per esempio Andrea da Bologna dice: efficacia astratta sconfina con l'effetto placebo, ma potrebbe anche questo essere, però così adesso detto certamente da una persona competente come me, in questo caso non posso dirlo, però effettivamente questo potrebbe essere insomma il sunto di quello che diceva il professor Amato. E poi invece c'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: a me servono 2 milioni 20 mila euro, non si capisce la cifra, per l'acquisto di una casa a Pordenone. Potete dirlo a mister Berlusconi, perché oggi Berlusconi ha detto che sono con l'acqua alla gola, non c'è più un soldo per il partito. Ringrazio anche chi fa le spiritosate sull'Uveite. E adesso però parliamo della giornata degli euroscettici. Europa 24 notte. E saluto Enrico Brivio da Bruxelles. Ciao Enrico. Ciao. Allora, oggi dicevamo è stata una giornata importante, immagino anche fattiva per i cosiddetti euroscettici, cioè per quanto riguarda l'Italia, in particolare Grillo col suo Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini con la Lega, che hanno cercato, sono andati un po' a incontrarsi, a vedere quali possibili punti di conciliazione, di mediazione, di alleanza ci potevano essere con altri gruppi, perché per fare un gruppo parlamentare all'Europarlamento servono almeno 25 deputati che provengano da almeno 7 nazioni diverse, vero Enrico? Ci confermi? Sì, esattamente così, ed è molto importante perché c'è in gioco una posta politica e anche una finanziaria, nel senso che se non si ha un gruppo di questo tipo, cioè con almeno rappresentanti di 7 paesi e 25 persone, non si può esprimere in seduta plenaria accedere alla presidenza di qualche commissione e soprattutto nella procedura di decisione, quella più importante per il Parlamento, non si può avere rappresentanti. E poi c'è l'aspetto finanziario, perché un gruppo parlamentare costituito può disporre di una segreteria, ufficio, assistenti, che invece chi non è organizzato in questo modo non può, cioè può, ma ovviamente le spese sono a carico del Parlamento se si è un gruppo costituito, e inoltre si partecipa a dei finanziamenti che nel 2013 sono stati di 57 milioni di euro. Interessante vedere cosa farà Grillo, per esempio, che li ha rifiutati in Italia. Per quanto riguarda il Parlamento italiano, questo effettivamente sarà una domanda da fare prossimamente a un parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ieri c'era qui, era in collegamento Carla Ruocco, e la prossima volta ci sarà modo di chiederlo effettivamente. Adesso però stanno facendo i primi passi. Ora vi faccio sentire l'ascoltatrice e gli ascoltatori un passaggio di quello che ha detto in conferenza stampa oggi Matteo Salvini dopo aver incontrato Marine Le Pen, che è, lo sapete, la trionfatrice in Francia, la leader del Front National, che è considerato un partito populista, xenofobo e naturalmente anti-europeo. Sentiamo. Orgoglioso di sedere a questo tavolo, in questa alleanza per la speranza, contro tutto quello che è unico: la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico. Finalmente ci sarà un'opposizione a quei trattati internazionali che svendono il nostro futuro, la nostra agricoltura, il nostro commercio per l'interesse di qualcuno. Siamo partiti in pochi, siamo in cinque. All'apertura del Parlamento di Strasburgo l'obiettivo è di essere l'unica grande, coerente, coesa e credibile opposizione alla frittata di democristiani e socialisti che già c'era. Questa è la dichiarazione di Matteo Salvini, no? E alla fine tu, che sei lì a Bruxelles, Enrico Brivio, hai capito se sembra che insomma ci siano delle alleanze effettive, dicevano oggi Grillo e Farage, è vero che si pronuncia questo del leader inglese del partito populista Farage alla francese? Sì, Farage, ecco. Sì. Non Farage, Farage. Farage, insomma, dipende un po' come si preferisce, Farage, insomma, sai, qui a Bruxelles si oscilla dall'inglese al francese, ognuno però dice a modo suo. Però, insomma, diciamo, quello che è interessante è che Salvini ha detto di voler essere l'unica forza coesa di opposizione. In realtà c'è una grande competizione, perché questa galassia di euroscettici in realtà è molto composita, e c'è già questa competizione, appunto per il motivo che abbiamo detto, di creare un gruppo parlamentare tra Farage che ha incontrato Grillo in un ristorante di Bruxelles, in un incontro segreto ai quali i giornalisti non sono riusciti ad accedere, e invece quest'altra alleanza che vede la Le Pen, Salvini, il Partito delle Libertà di Geert Wilders olandese, l'EFPO austriaca, cioè il partito che era di Haider, e il Vlaams Belang fiammingo, tutti i partiti di diciamo estrema destra, anche se la Le Pen ha detto però di non voler arrivare al punto di stringere alleanze con Alba Dorada o con lo Jobbik ungherese, Alba Dorada, cioè, partiti veramente movimento neonazista, no, in Grecia, esatto. che è salito particolarmente con la crisi. Quindi insomma, per il momento vanno avanti questi. C'è una competizione, perché adesso devono aggregare tanti partiti nordici che però forse potrebbero essere più interessati all'alleanza con Farage, che lì definisce meno, li qualifica meno di estrema destra, gli dà più nei margini di indipendenza, però è una battaglia aperta proprio per aggregare un numero di partiti sufficiente per costituire un gruppo. E poi c'è un terzo polo, che è quello dei conservatori britannici, anche loro euroscettici, che però dovrebbero riuscire anche loro a costituire un loro gruppo. Quindi il fronte euroscettico sarà comunque molto frammentato. E poi staremo a vedere, insomma, visto che i lavori continuano. Grazie Enrico Brivio da Bruxelles. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Ciao Enrico. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, stavo guardando anche i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Leggo effettivamente un pensiero, una considerazione di Massimo, che non è così peregrina, se vogliamo. Dice: questi anti-europeisti che percepiscono lo stipendio dalla comunità europea, dice veramente il Massimo. No, Massimo non è il nome, ma è il Massimo, nel senso è proprio il top, prendere lo stipendio dalla comunità europea verso la quale si combatte, perché effettivamente un conto è volerla cambiare, al di là che sia europeista o anti-europeisti, però se si è anti-europeisti effettivamente prendere lo stipendio poi dall'Unione Europea è una cosa un po' particolare. Ma adesso atteniamoci alle notizie, tra poco con il prossimo ospite tratteremo un'altra questione delicata. Il giorno degli euroscettici oggi a Bruxelles, faremo bei guai a Bruxelles, dicono Farage e Grillo, e poi Salvini e Le Pen. Sono andati appunto gli euroscettici a trovare alleanze in sede dell'Unione Europea, e gli anti-europeisti intanto appunto si stanno organizzando. Pressing di Renzi, l'Europa cambi, l'agenzia Fitch lo promuove, il ministro Padoan dice la svolta all'Unione Europea è nelle nostre mani, intanto c'è il calo dello spread. Berlusconi scuote Forza Italia, dice resto io, non parliamo dei miei figli, coalizione prossimamente ma non con tutti, e poi avverte siamo con l'acqua alla gola, servono soldi per il partito. L'Istat fotografa una Italia in crisi in cui cambia la famiglia, e poi per il cartello dei farmaci il Ministero della Salute chiede 1,2 miliardi a Roche Novartis, un risarcimento danni per il caso, vi ricordate, Avastin Lucentis, i due farmaci per gli occhi. In Italia i bimbi dal Congo, questa è la bella notizia, sono arrivati dal Congo con la ministra Boschi, accompagnati dalla ministra, c'è stata la festa a Ciampino. E adesso invece occupiamoci del sovraffollamento delle carceri, una questione delicata, un tema annoso di cui si parla spesso a cicli, diciamo, e oggi, proprio oggi, 28 maggio, scade l'ultimatum, il tempo cioè concesso all'Italia dal Consiglio d'Europa per sanare questo sovraffollamento carcerario nel nostro paese. La sentenza con cui a gennaio 2013 la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il sovraffollamento carcerario ha stabilito che un piano di soluzioni a questo problema doveva essere individuato entro oggi. Entro il 28 maggio 2014, quindi il termine è scaduto praticamente, il pronunciamento nel merito da parte della Corte arriverà poi il 5-6 giugno, tra qualche giorno, dirà insomma l'Italia in che situazione è, che cosa spetta al nostro paese. Sono dunque ore decisive per l'esame che il nostro paese deve sostenere sulle carceri di fronte appunto alla Corte di Strasburgo e al Consiglio d'Europa. Il ministro della Giustizia Orlando ha presentato un pacchetto a Strasburgo di possibili provvedimenti, adesso si attende il responso. Il piano sarà ritenuto sufficiente? Lo chiedo al sottosegretario Cosimo Ferri, sottosegretario della giustizia, buonasera. Buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Buonasera Ferri, benvenuto. Grazie. E quindi questo allora, oggi è scaduto, cioè, il termine, Orlando ha presentato questo pacchetto, che come vi state muovendo, come si sta muovendo il Ministero della Giustizia e il Governo per non incappare in altre condanne o in sanzioni a questo punto da parte della Corte dei diritti dell'uomo? Muovendo molto bene, il ministro è andato a Strasburgo, ha illustrato il nostro piano, e già il vice segretario generale del Consiglio d'Europa ha già riconosciuto che l'Italia sta andando nella giusta direzione, e questo per noi è un segnale positivo molto molto importante, perché non dimentichiamoci che un anno fa le cose erano messe davvero in modo critico. E intanto un ottimismo è fondato sui dati. Oggi i detenuti sono 59.000 circa, mentre un anno fa erano 66.000, quindi il meno 6.000 è un risultato importante. Oggi in tutti gli istituti penitenziari abbiamo adeguato le celle, in quanto stiamo rispettando i 3 metri per 3 previsti anche dalla sentenza Torreggiani per ciascun detenuto, ma non ci limitiamo solo, perché il segnale che vogliamo dare all'Europa e che l'Europa ci chiede non è solo limitato a uno spazio fisico, ma anche a un investimento rieducativo della pena che dobbiamo fare, e quindi stiamo adottando anche delle misure organizzative, per esempio per quanto riguarda il tempo che i detenuti devono stare all'interno della cella e quello che invece possono sempre dentro il carcere, però fuori dalla cella, ponendo in essere attività lavorative, rieducative, di studio, di istruzione, di scuola. Quindi Noi siamo ottimisti, pensiamo che la Corte possa valutare positivamente i provvedimenti italiani che sono stati illustrati dal Ministro, sono tanti, è in corso in Parlamento in terza lettura uno che riguarda la custodia cautelare in carcere, sono stati fatti provvedimenti per quanto riguarda il braccialetto elettronico, è stato fatto un provvedimento per quanto riguarda la messa alla prova, che è importante, con la sospensione del procedimento nei confronti di irreperibili, e poi la messa alla prova è un istituto che abbiamo preso dall'ordinamento penitenziario minorile e che ha funzionato molto, perché dimostra che quando l'imputato accede alla messa alla prova e quindi fa un programma terapeutico, alla fine poi non ricommette il reato, quindi diminuisce il tasso di recidiva. E questo è positivo perché garantisce la sicurezza della collettività, perché noi a chi sbaglia con questa messa alla prova inizia un percorso che poi lo ristrada nella via giusta e quindi non ricade nell'errore. E quindi mi faccia capire, mi scusi sottosegretario Ferri, quindi lei diceva oggi sono 59.000 i detenuti, erano 66.000 fino all'anno scorso mi pare che avesse esatto. Detto, e quindi perché hanno concluso la loro pena, la loro condanna, oppure a seguito di questi provvedimenti che lei diceva come la messa alla prova, il braccialetto eccetera? No, allora per quanto riguarda la messa alla prova è un provvedimento che è diventato legge ed è entrato il 17 maggio, quindi da pochissimo, vale, quindi non è possibile per il futuro, e quindi è uno dei rimedi normativi che noi dimostriamo all'Europa di avere posto in essere con l'attività non solo del governo ma devo dire del Parlamento, perché era di iniziativa parlamentare. E quindi questa diminuzione, invece questi numeri sono diminuiti con intanto la liberazione anticipata, che è passata da 45 a 75 ogni 6 mesi, con i protocolli che stiamo stipulando e che sono già in vigore per il rimpatrio dei detenuti stranieri, tra l'altro ne abbiamo rinnovati due con il Marocco e la Romania, e quindi stiamo anche velocizzando tutte quelle procedure anche per snellire e facilitare l'identificazione dei detenuti stranieri, e quindi una volta identificati correttamente possono andare nel paese d'origine e scontare la pena lì. E poi abbiamo ampliato la possibilità delle misure alternative, che oggi possono essere concesse non più fino a 3 anni ma fino a 4 anni, ed è stato stabilizzato, è stato tolto il divieto che c'era per l'affidamento in prova terapeutico per i tossicodipendenti, in quanto diciamo i tossicodipendenti chiaramente hanno bisogno di essere curati, quindi invece di tenerli nelle carceri li mandiamo nelle comunità terapeutiche e cerchiamo di farli uscire e disintossicare da purtroppo una situazione dalla quale è meglio una terapia efficace in una comunità che stare dentro. Questo è chiaro. Inoltre abbiamo stipulato 5 protocolli d'intesa con le regioni, e quindi anche le regioni si sono offerte di affidare dei detenuti tossicodipendenti nei centri specializzati, quindi anche le regioni, 5 hanno già stipulato questi protocolli, gli ultimi giorni il Friuli Venezia Giulia e Napoli e la Campania, il presidente Serracchiani e Caldoro, l'aveva già fatto la Toscana e anche altre 2 regioni, quindi anche questo è importante, e inoltre ci sono tutte quelle poi misure oggi che vanno poi, guardano anche al futuro. Però mi dica una cosa, sottosegretario Ferri, siccome si è parlato spesso ultimamente, non solo ultimamente, di provvedimenti come l'indulto, l'amnistia, quindi i cosiddetti atti di clemenza, provvedimenti di clemenza, mi sembra che il ministro della giustizia Orlando li abbia esclusi, dice non voglio riaprire lo scontro ideologico appunto su amnistia e indulto, però al momento mi sembra che questa cosa possa distogliere l'attenzione da quello che si può fare, ha detto. A proposito dice lo sforzo, stiamo capitalizzando lo sforzo fatto con le riforme, quindi mi pare che siano esclusi al momento possibilità oggi, di... Oggi sì, anche perché le misure che abbiamo posto in essere dimostrano che migliorano in maniera sostanziale la situazione, e quindi continuando così con queste misure, con quelle che ho detto che sono già legge, tipo la messa alla prova e che però ancora non è, di cui non abbiamo ancora i benefici, perché varrà per il futuro e quindi non risolve la situazione delle persone che sono oggi ristrette, accompagnate anche a, per esempio, sempre in quel provvedimento, la possibilità del giudice di applicare anche direttamente, il giudice della condizione, la reclusione, l'arresto domiciliare fino a 3 anni, obbligatoriamente può applicare, deve applicare l'arresto e la reclusione domiciliare come un nuovo tipo di pena, quindi sta cambiando anche il tipo di cultura nel parlare di tipicità delle sanzioni, e inoltre da 3 a 5 anni ha la possibilità di applicare o la reclusione classica in carcere o quella domiciliare. Sono tutte misure i cui effetti si vedranno più avanti e quindi che non aiutano oggi a risolvere la situazione, ma fanno capire come l'Italia stia guardando avanti in maniera positiva. Quindi, e questo sì, per rendere le carceri anche più umane. Ma mi dico una cosa, sottosegretario Ferri, siccome ci sono molti ascoltatori, ma insomma è abbastanza in opinione diffusa, mi scusi, nuove carceri, ecco, questa è la domanda: si costruiranno nuove carceri? Bravo, è stato stiamo intuitivo. Lavorando, intanto stiamo cercando di razionalizzare le strutture e quindi i piccoli carceri accorparli, per esempio in alcune situazioni abbiamo creato delle nuove strutture chiudendo magari gli istituti più piccoli e inoltre stiamo cercando intanto di recuperare dei padiglioni, di costruire dei padiglioni in alcune strutture, penso per esempio al padiglione che partirà a Palermo, che può raccogliere numerosi detenuti, a Catanzaro, quello che è stato fatto in Sardegna, a Reggio Calabria, quindi stiamo anche intervenendo nella politica, diciamo, dell'edilizia penitenziaria. Infatti, visto che anche tra l'altro in crisi l'edilizia. Un'azione davvero incisiva, perché guarda a tutti i settori, quindi veramente è un'azione ad ampio raggio. Ecco, ci aspettiamo, esatto, quindi ad ampio raggio, e sono sicuro che l'Europa intanto sospenderà, che è la cosa più importante in questo momento in cui dobbiamo pensare al la sentenza di condanna e la sanzione, i 7.000 ricorsi pendenti. Perché l'Italia ha 7.000 ricorsi pendenti. E la cosa è grave. Però, sottosegretario Cosimo Maria Ferri, è chiaro, lei ha veramente illustrato un piano molto, molto ampio, molto articolato. Alcune cose già sono state fatte, alcune si stanno facendo. Aspettiamo appunto che si concretizzino anche tutte queste cose che sembrano interessanti e vediamo appunto se viene risolto questo problema che ci trasciniamo da anni. Io la ringrazio, sottosegretario Ferri. Tra l'altro, come ultima cosa, segnalo anche la novità nella materia degli stupefacenti, che con il decreto legge, la legge 79 del 2014, in cui saranno ridotte le pene per quanto riguarda la lieve entità, che comunque lei sa che comunque la certezza delle pene è una cosa che sta molto a cuore in genere all'opinione pubblica. Però, sottosegretario Ferri, avremo molto modo ancora di parlare, visto che le cose da dire che lei vuol dire sono molte. Adesso però mi scade il tempo, io la saluto e la ringrazio, sottosegretario. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo in pochi secondi subito le notizie più importanti. Gli euroscettici, oggi è stato il loro giorno a Bruxelles, si sono incontrati tra di loro. Grillo con il populista inglese Farage e promette causeremo guai a Bruxelles. Salvini con Marine Le Pen. E poi caso Novartis Roche, il Ministero della Salute chiede 1.200 miliardi di risarcimento. La fotografia dell'Istat, la crisi cambia la famiglia, più madri a portare lo stipendio a casa, figli che vanno all'estero, e poi disagio lavorativo per 3 milioni di persone. Per le adozioni sono arrivati in Italia bimbi provenienti dal Congo, c'è stata festa a Ciampino. C'è un ascoltatore, Mario da Crema, che dice: ma perché andare in Congo per adottare un bambino? In Italia abbiamo tanti bimbi da adottare, è forse di moda evidenziare una differenza somatica tra adottati e adottati? Non credo proprio. Guarda Mario, dovresti provare a cercare di adottare un bimbo in Italia, è praticamente impossibile. Ma adesso passiamo a un altro tema. Con Linda Laura Sabbadini, Buonasera Linda Laura. Buonasera a voi. Direttrice del Dipartimento delle Statistiche Sociali dell'Istat. Proprio per farci un po' illustrare questa fotografia, l'annuario dell'Istat che è stato presentato oggi a Montecitorio, un'istantanea della nostra Italia nel pieno della crisi, dove abbiamo detto, vi anticipavo proprio in sintesi, la recessione che sembra finita, ma il paese è proprio ancora in stallo, con 6,3 milioni fuori dal mercato del lavoro, quindi disoccupati raddoppiati dall'inizio della crisi, nascite al nuovo minimo storico, quasi 100.000 giovani emigrati in 5 anni e con i ritorni sempre più rari, uomini a casa, al sud, leggo, le donne sono i nuovi capi famiglia. Linda Laura, questa in sintesi. Allora, quello che sta succedendo da un punto di vista sociale, che era evidente, l'avevamo detto già, che la crisi sociale sarà più lunga della crisi economica, perché gli effetti di questa crisi sono pesanti e le conseguenze da un punto di vista sociale, sia delle disuguaglianze territoriali, sia delle disuguaglianze più ampie da un punto di vista sociale, si sentiranno per lungo tempo. Ci vorrà tempo per riassorbire la pressione sul mercato del lavoro di tutte queste persone che o hanno perso il lavoro o non sono riuscite direttamente a entrare e quindi dovremo fare i conti con una situazione per tutta una fase, anche quando la crescita sarà più intensa, in cui la situazione sociale sarà difficile. Però bisogna capire bene come stanno le cose. Nel 2013, da un punto di vista del lavoro, abbiamo raggiunto il picco, proprio la situazione peggiore. La situazione peggiore è anche peggiore del 2009, che era stato invece proprio l'anno di picco della crisi. E la perdita di occupati è stata cospicua, e quello che è successo è che il Mezzogiorno in particolare, che già aveva iniziato a perdere occupazione prima del 2009, già nel 2008 ne aveva perso più del doppio di quello che avevano perso il Centro-Nord in termini relativi, ha perso ulteriormente, si è allontanato ulteriormente rispetto alle altre zone del paese, e questo ovviamente ha effetti rispetto anche a tutta la situazione delle condizioni economiche delle famiglie, ha effetti rispetto alla situazione di povertà, i livelli di povertà assoluta sono cresciuti e così via. Quindi un primo dato fondamentale che emerge è che c'è un problema di coesione territoriale molto forte nel nostro paese, cioè non c'è il dualismo storico che si mantiene, c'è un dualismo territoriale che si aggrava, cioè il Mezzogiorno si allontana negativo sempre più dal Centro-Nord, seppure anche il Nord, come sappiamo, è stato investito dalla crisi, certo, e ha conosciuto grosse criticità. Ora, quello che va sottolineato però, che non è che è tutto negativo ovviamente, perché da un punto di vista del mercato del lavoro la crisi ha colpito fortemente soprattutto nel primo semestre del 2013. Negli ultimi mesi del 2013 ci sono stati segnali di rallentamento dell'emorragia occupazionale, soprattutto nel nord del paese e nel centro del paese. Anche nel Mezzogiorno un po' di rallentamento, ma già nel nord e nel centro si è visto che se ne stava uscendo, fino a che non siamo arrivati al dato di marzo con il segno più rispetto all'occupazione. Ovviamente è un segno del dato di marzo, no? Dovremmo vedere quanto si consolida, magari non si consoliderà subito, perché inevitabilmente questa è una crisi intensissima, non è che immediatamente riusciremo ad avere una reazione tutta positiva. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che gli aspetti, come dicevi, delle tendenze demografiche, no? Che sono, e per spiegarli abbiamo giusto un minuto, perdonami Linda Laura Sabatini, giusto un minuto per spiegare. Sì. Velocissima, gli aspetti tendenze demografiche aggravano un po' il quadro, perché l'invecchiamento della popolazione sta avvenendo molto di più al sud che non al nord, proprio in quella zona che è più colpita, il calo delle nascite ancora di più al sud. Paradossalmente, il sud ha il primato di calo delle nascite, ormai sono le regioni del sud, quindi questo aspetto, con la crescita dei bisogni al sud più alta di quanto si riesca a rispondere e con una situazione dei servizi sociali che non è la situazione che servirebbe, diciamo, per rispondere a una situazione così grave, ovviamente non può che allarmare. C'è da affrontare questa questione della coesione sociale e della coesione territoriale del nostro paese come uno degli elementi, certo, fondamentali emergenti in prospettiva. Ne tenga presente il governo Renzi fra le tante cose. Grazie intanto Linda Laura Sabadini dell'Istat. Grazie a voi. Ciao, buona continuazione. Noi continuiamo tra pochi istanti.